Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Credo che l'Afghanistan e tutti i paesi che sono diversi dall'Occidente abbiano il diritto di farsi le leggi che vogliono. In quanto alla globalizzazione, non è vero che quei paesi sono vicini, anzi, sono lontanissimi dalla nostra concezione. Finché non comprenderemo la loro concezione di vita, costumi e valori, cosa che noi non abbiamo più, non ne verremo fuori. Sinceramente all'Occidente, inteso come capi di Stato, non frega niente di questa legge che permette ai mariti di stuprare le mogli. Almeno, nel senso comune, è solo piuttosto imbarazzato. Se ci fosse da bombardare per motivi economici, le cose sarebbero ben diverse. Ecco i valori dell'Occidente, dei quali andiamo tanto fieri. Federico. Gentile direttore, mi sono permessa di scrivere ad alcuni politici sulla mia preoccupazione nei riguardi degli immigrati clandestini arabi, ma anche quelli regolari, pur sapendo che, come recita un proverbio, una sola noce in un sacco vuoto non fa rumore. Illustrissimi senatori e deputati, sono due i principali obiettivi non solo di Hamas, ma della maggior parte degli arabi islamici: distruzione dello Stato israeliano e soppressione di tutti coloro che non professano la loro religione, in quanto chi non ha fede in Allah non ha ragione di vivere. La Costituzione italiana non ci costringe a conoscere gli insegnamenti di Gesù, ma gli arabi sono obbligati a sapere a memoria lo Statuto e il Corano, altrimenti vengono sottoposti ad atroci torture e condannati a morte. I loro figli debbono essere educati a diventare dei martiri e per farlo non hanno scrupoli. Insegnano da subito che gli ebrei sono dei sionisti, dei terroristi e dei criminali. Si può pensare di crescere i figli in un odio così spietato? Si può pensare di inculcare nei bambini il desiderio della morte e del martirio? Signori politici, vi siete mai chiesti il perché il flusso di immigrati arabi clandestini aumenti sempre di più, nonostante gli accordi bilaterali con la Libia? Immigrati clandestini che una volta in Italia riescono a volatilizzarsi? Pensate forse che vengano solo perché nei loro paesi vivono in condizioni disumane? Vengano per fame e per fuggire dalla galera? Io penso che tutta questa gente venga non solo per le ragioni suddette, ma soprattutto mandata proprio dai loro capi governanti per adempiere una missione religiosa, che poi è anche legge in quei paesi. Senza l'autorizzazione delle autorità, come farebbe tanta gente a scappare dai propri paesi a regimi autoritari, ove non è possibile fare un passo senza essere controllati? Nonostante gli attentati terroristici in America, in Europa, in Inghilterra ed in Oriente, i vari governi italiani si prendono il lusso di non prendere provvedimenti idonei, come hanno fatto gli altri paesi, per evitare l'arrivo di immigrati clandestini. Perché i clandestini, dopo il tanto propagato ed annunciato accordo storico di riparazione con la Libia, che avrebbe dovuto fermare le partenze di massa dalle coste libiche, sono invece aumentati considerevolmente? Perché ancora oggi per un'espulsione si procede ancora con un semplice foglio di via, ben sapendo che il soggetto certamente non asseconderà? Il nostro sistema giudiziario è imballato. I rumeni in tutta Europa si comportano civilmente, solo da noi diventano bestie feroci. Perché? Bisogna farla finita con il buonismo. Sono più disposta ad inviare nei loro paesi gli aiuti piuttosto che averli qui, ove non rispettano le nostre tradizioni, cultura e civiltà. Alba. Buongiorno, direttore. Ho deciso di mandarvi la copia della mail di protesta che ho inviato all'Unione Europea. Sembrano discorsi da No Global, ma sono solo un razionale studente che ha sempre votato centrodestra. La lettera è la seguente. Mi chiamo Damiano, studente 23enne di ingegneria. Torno a scrivervi perché ho letto l'ennesima sconvolgente direttiva dell'Unione Europea, stavolta sul succo d'arancia, il quale può essere totalmente privo d'arancia. La conclusione di fronte a queste leggi comunitarie è che l'Unione Europea legifra senza alcun buonsenso, senza lungimiranza. Lo scopo dell'Unione Europea è fare gli interessi delle grandi lobby, le quali sono il motore che muove ogni decisione europarlamentare. Poco importa se col tempo verrà a crearsi una popolazione ammalata, con cibo tossico, per nulla nutriente e innaturale per l'organismo. L'importante è dare la fetta di mercato alle lobby che la chiedono. Poco importa all'Unione Europea se i contadini, veri produttori di prodotti sani, falliscono con le loro imprese agricole. La Comunità Europea costringe paesi con differenti necessità ad accettare leggi comuni, le quali possono favorire alcuni, ma sfavorire altri. L'Italia è obbligata ad aprire i confini e a farsi invadere da immigrati senza alcun controllo. È stata obbligata a regalare alle industrie mondiali i nomi dei suoi prodotti tipici, allo scopo di produrre generi alimentari con lo stesso nome, ma delle caratteristiche totalmente diverse: olio, vino, parmigiano. Italia è obbligata ad aprire le frontiere al mercato globale, a farsi invadere da prodotti cinesi contraffatti. Ora, con la crisi, si riscopre il protezionismo, i prodotti agricoli a chilometro zero. Così non si inquina col trasporto e si mangia sano. Serviva la crisi a far capire che non si può pompare a tutti i costi un mercato globale solo per gli interessi di grosse multinazionali. Damiano. Egregia redazione. Mi è capitato e mi capita di continuo di mandare mail con richieste, opinioni, consigli o addirittura lamentele ed insulti, ma di non ricevere mai una risposta. È incredibile come uno strumento così versatile e senza costi come la posta elettronica sia così mal usata. È evidente che anche dietro un mezzo così potente ci sia la miseria morale, mentale e culturale della moderna società. Mi è capitato con realtà come uffici pubblici, associazioni di categoria, aziende private, anche quando chiedevo lumi su dove acquistare i loro prodotti. L'unico uso che vedo fare della posta elettronica da parte di tutti sono la mailing list e le newsletter, dove viene comunicato a senso unico solo quello che conviene alla controparte e che viene assemblato uguale per tutti, con unica variante il nome del destinatario. Le uniche volte in cui mi è capitato di relazionare con posta elettronica è stato quando venivo pagato per seguire dei lavori e, per diritto di chi paga, mi venivano recapitate una valanga di mail per farmi pressing. Ma gli strumenti elettronici non dovevano servire a relazionare invece che semplicemente a comunicare? Il bello è che questa miseria umana vale anche per i numeri verdi, i cellulari e tutti quegli strumenti che ti consentono di comunicare anche in vetta all'Everest. Con i numeri verdi capita spesso che, dopo essere stato per decine e decine di minuti alla cornetta per non perdere la priorità acquisita, la linea cada prima di sentire una voce. Io andrei a chiedere i danni per il tempo di vita perso al telefono, altro che servizio. Glielo farei io il servizio. Con i cellulari la gente si manda gli SMS goliardici o scherzosi, ma mai nessuno che ti messaggi cose come «Come va la vita? Stai bene?». Non parliamo poi della posta elettronica. Avete mai visto cosa si passano gli impiegati da un ufficio con l'altro o tra aziende diverse? Solo stupidate fatte in PowerPoint o barzellette trite e ritrite? Claudio. Se siamo in crisi, come dicono tutti, e in crisi ci siamo effettivamente, a quando i sacrifici dei nostri governanti, parlamentari, consiglieri regionali, eccetera? A quando la riduzione delle auto blu? Sembra che siano 800.000 in Italia. Negli Stati Uniti circa un decimo. E poi confermo che quando ci saranno le elezioni provinciali, all'annullamento delle schede scriverò no alle province. Altra promessa in attesa dei nostri politici in campagna elettorale, tutti compresi. Facciamoci sentire quando possiamo. Massimo. Al termine della giornata nei campi, Ignazio Maisazio si avviò verso casa, conducendo per la cavezza l'asino che trainava un carretto colmo di patate. Giunto ad una fontana, il contadino si beò con lunghe sorsate e spronò l'asino a fare altrettanto. La bestia non si fece pregare e bevve fino a quando avvertì che la sua sete era placata. Al contadino parve insufficiente la bevuta dell'equino. Lo incitò quindi a proseguire. Dapprima con voce suadente, poi immergendogli la bocca nella fontana e infine imprecando a modo suo nella speranza di indurlo a fare scorta di acqua. Risultando vani questi tentativi, usò le maniere forti, ossia prese il bastone e randellò a più riprese l'asino affinché obbedisse al padrone. Ma il quadrupede, avvertendo che il proprio organismo non aveva più bisogno di acqua, non mutò condotta e rimase in quella posizione sofferta e sofferente fino a quando Ignazio non si decise a tirare oltre, seguito da asino e carretto. Giunto a casa e regolato l'asino con la solita razione di fieno, l'agricoltore, in compagnia di amici, consumò una cena pantagruelica, fatta di un po' di tutto, ben irrorata con vino e birra e conclusa con dolce, caffè, liquori e qualche sigaretta. Quella notte l'asino dormì sonni tranquilli, parola di animale. Quella notte l'uomo e gli altri si girarono e rigirarono nel letto. Il sonno fu spilorcio, il riposo scarso e gli incubi abbondanti. L'indomani l'asino, ben riposato e in forma, lavorò sodo. Ignazio, troppo sazio, e gli altri, tutti appesantiti dal desinare e carichi di sonno, riservarono invece più tempo agli sbadigli che al lavoro. Che sia il caso di imparare dagli asini ad essere meno somari? Costante. Scrivo a proposito della bocciatura da parte del Consiglio Superiore della Magistratura delle ronde. Da parte mia, credo che la motivazione espressa dal CSM, secondo il quale le ronde si potrebbero rivelare un danno ben peggiore dell'eventuale prevenzione che ne deriverebbe, sia del tutto infondata e, come al solito, politicizzata. Si deduce quindi che, da domani mattina, associazioni di volontari come i City Angels e altri debbano immediatamente togliere il disturbo. Mario, Milano. Gentile direttore, vorrei fare un appunto veloce ma importante sul nuovo piano casa che il governo ha realizzato e che penso sia un'ottima idea per stimolare il lavoro e l'investimento di soldi da parte del popolo. Aggiungere una forma di incentivo fiscale con presentazione fattura per evitare che tutto ciò si trasformi, come al solito in edilizia, in evasione fiscale e lavori in nero. Christian. Caro direttore, non pensa che sarebbe il caso che Radio 24 prendesse una posizione netta e chiara di fronte alla truffa che il Presidente del Consiglio sta preparando per le elezioni europee, presentandosi come capolista in tutti i collegi, pur non avendo non solo l'intenzione, ma nemmeno la possibilità di svolgere il suo compito di parlamentare europeo? Luigi. Caro Luigi, nel dibattito politico degli ultimi giorni si è molto discussa sulla volontà di Silvio Berlusconi, una volontà che lui stesso ha confermato, di presentarsi direttamente alle elezioni europee. Ne abbiamo parlato spesso nei nostri giornali radio, così ne ha parlato più volte Giuseppe Cruciani, sollecitato dagli ascoltatori nella sua zanzara. Ebbene, le devo dire che lei, come tanti altri, parla di truffa verso gli elettori. Le parole hanno un peso. Truffa, stando al vocabolario e al codice penale, è un preciso reato ed è definita come attività ingannatoria capace di indurre la parte offesa in errore attraverso artifici e raggiri. Ebbene, tante cose si possono dire della scelta di Berlusconi. Si può dire che è inopportuna politicamente, che è scorretta da un punto di vista formale, che sposta l'attenzione degli elettori dai temi europei a quelli strettamente italiani, che è anomala rispetto alla prassi degli altri paesi, che mette in secondo piano le personalità dei veri candidati. Ecco, penso che tutto questo si possa e si debba dire, ma una truffa no, è una scelta fatta alla luce del sole, che non può ingannare nessuno, che non usa nessun artificio o raggiro. Le polemiche sono certamente utili al dibattito politico e alla stessa democrazia, ma per favore, usiamo le parole giuste. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.